Swing, dall'America arrivato, benvenuto Mr. Swing, che notizie m'ha portato, oggigiorno creda pure il Boogie Woogie non è più una novità. M'hanno detto che laggiù Frank Sinatra l'han fischiato, che Bing Crosby diverrà presidente del Senato. Se son vere queste cose, caro amico, sono proprio novità. Qui van già matti per il ribon e cantan tutti ehi baba riba. Benvenuto Mr. Swing, lei sarà meravigliato di saper che pure qui piace tanto il sincopato. Nelle prossime elezioni voteremo tutti quanti per lo swing. Ehi, hey, babriba!